fondazioni, e qui chi non vuole vedere, diciamo, e credo che la Lega non voglia vedere, le fondazioni sono ancora uno snodo essenziale, diciamo, degli assetti di potere del paese, e visibilmente sono permeabili alla politica. Purtroppo quello che vediamo è ancora una volta la conferma di una regola: quando le riforme non vengono portate fino in fondo, poi le riforme fatte a metà sono il trampolino di lancio delle controriforme. Qui l'operazione che doveva portare alla fuoriuscita integrale delle fondazioni dalle banche non è stata portata a termine. Ci siamo cullati per un lungo tempo dicendoti che era un fattore di stabilità, eccetera, eccetera. La realtà dei fatti, diciamo, è che le fondazioni avevano un compito, dovevano svolgere quel compito, hanno sempre pensato di svolgere un altro, però. E quindi la cosa prima da fare in questo momento sarebbe ricondurre il loro alveo naturale, cosa che oggi naturalmente è difficilissima.